Qualunque cosa sia non durerà, perciò rilassati. Le conseguenze e le difficoltà, una alla volta e senza fretta. Avevo esattamente gli anni tuoi, volevo andare via. Ma le voragini che avevo dentro sono rimaste lì. Sbuccio i miei pensieri, lascio tutti i gusci sparsi sopra il pavimento. Userò quei resti utili per asciugare un altro lungo pianto. Tutta questa solitudine non è poi così invivibile. Bianca la luna se ne va, ma tanto sai che torna. Cicli di malinconia, è solo una folata di vento che arriva un po' più giù, più in là. E non si vive indifferenti, ma nemmeno appesi. È meglio non seguire dei pensieri che porterebbero a cattivi esempi. Sbuccio le mie convinzioni con due mani bianche di polistirolo. La felicità è uno sbaglio, un figlio, un fiore nato dal cemento armato. Tutta questa solitudine non è poi così invivibile. Bianca la luna se ne va, ma tanto sai che torna. Cicli di malinconia, è solo una folata di vento che arriva un po' più giù, più in là. Tanto sai che torna, cicli di malinconia, è solo una folata di vento che arriva un po' più giù, più in là, di un dolore qualunque.